Ma lo sciopero che faremo a breve di fronte alla Menarini, uno sciopero di un'ora con presidio, è dovuto alla lettera di trasferimento che un lavoratore dell'azienda ha ricevuto, in cui gli viene intimato, dopo 30 anni e passa di lavoro alla Menarini di Bologna, il trasferimento presso lo stabilimento di Flumeri e con esso il trasferimento di tutto l'ufficio del personale. Ora, l'avvertenza della Menarini è un'avvertenza lunga. Noi abbiamo sottoscritto un accordo in regione nel dicembre 2024, dove a fronte dello spostamento della produzione a Flumeri chiedevamo non solo il mantenimento del resto delle attività, comprese l'amministrazione e quindi l'ufficio del personale a Bologna, ma anche l'aumento delle assunzioni nella ricerca e sviluppo e quindi insomma la prosecuzione dell'attività più di ricerca impiegatizia sulla sede di Bologna, cosa che già nell'incontro in regione svolto mercoledì, e per cui avevamo già mostrato, fatto un altro comunicato in cui usciva la nostra forte preoccupazione per la situazione produttiva e dello stabilimento. A fronte di quella situazione lì, appunto, sappiamo che il piano industriale ha dei gravi ritardi, ma sicuramente quello che ci è arrivato con questa lettera di trasferimento è una doccia fredda, perché non c'era stato minimamente condiviso al tavolo con la regione e quindi anche di fronte all'assessore Paglia questo elemento importante e che invece è cruciale, perché significa che noi chiediamo all'azienda di rispettare gli accordi sindacali sottoscritti e quindi di mantenere l'ufficio a Bologna come appunto previsto, e oltre allo sciopero e la mobilitazione dei lavoratori che parte oggi e vedremo insomma quale sviluppo avrà a seconda anche delle interlocuzioni e delle risposte con l'azienda, valuteremo insomma anche una possibile condotta antisindacale da parte aziendale. Quindi la vostra è una critica non solo riguardo al trasferimento ma anche al modo con cui ne siete venuti a conoscenza? Allora sì, il nostro è uno sciopero, cioè volto uno a ritirare il trasferimento del lavoratore, che equivarrebbe sostanzialmente a un licenziamento, e in secondo luogo connesso al rispetto degli accordi sindacali che prevedono che appunto l'attività dell'ufficio del personale debba stare sulla sede di Bologna.